Classe. Again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Whee! Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Oh, yeah. Once again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Ben ritrovati su Bazinga, ragazzi. Beh, la cosa bella è che hai detto ben ritrovati prima di che finisse la sigla. Ah, perché io sono un grande, si sa. Sì, sei un grande. So farle queste cose, dai. Lo sappiamo tutti che sei un grande e ce ne compiacciamo. Ormai ho abbastanza esperienza. Facciamo il rodaggio a quello che dicevo io, vediamo di parlare sotto, no, finalmente, con qualcosa, qualche pezzo musicale, parlare sotto, perché finora, come tutti voi sapete, dopo ti ricordi, noi all'inizio, quando abbiamo cominciato a fare radio, le prime settimane, le prime due o tre puntate, parlavamo con Macho Man, poi abbiamo pensato che fosse una canzone troppo gay, e quindi abbiamo deciso di lasciarla andare. No, non era proprio Macho Man, però cambiavamo sempre pezzo, dopo ogni canzone, sotto mettevamo un pezzo e parlavamo. Effettivamente un aiuta. Un pezzo tipo che so, Macho Man. Ma non è vero. No, io non ho mai sentito vero, questa canzone. Non no. Ti ricordi? Sì, Gabriele, mi ricordo perfettamente. No, la cosa brutta, vero, è che, diciamo, poi, dato che una volta è successesso quando sono venuti a trovarci i nostri amici i Money for Weed, un gruppo ospite in studio, era successo che qualcuno aveva smanettato un pochettino con il mixer. E aspetta, praticamente, per le persone che diciamo non sono informatiche, spiega cosa vuol dire smanettare, perché potrebbe essere smanettare pornografico. No, sì, vero, ti ricordi, poi avevamo avuto pure una discussione. Stasera siamo in vena di a me non capivo, già stiamo facendo ripasso della trasmissione arcaica di ottobre, novembre, di ottobre. Esatto. Praticamente smanettare non significa dilettarsi con come si può dire? Dilettarsi con lo smanettamento. Non c'è un'altra cosa. Smanettamento. Cercalo su Wikipedia. Ragazzi, non è niente di pornografico. Cerca smanettamento. Non si era smanettato sul mixer nel senso pornografico. Aveva smanettato il mixer nel senso che aveva toccato qualcosa che non doveva toccare. Non in senso pornografico. Perché miseria, Gabriele, mi hai messo la mano. Stai facendo proprio delle gaffe. E mi sto scavando la fossa da solo. Quindi insomma, bando alle smanettate. Bando agli smanettamenti. Meglio smanettarsi è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Esatto, Gabriele lo sa bene perché è un grandissimo fan dello smanettamento. Comunque stavo dicendo, qualcuno aveva smanettato col mixer e praticamente non abbiamo potuto più mettere la musica in sottofondo perché non trovavamo il canale giusto e col volume giusto. Sentivamo tutto a palla e praticamente non riuscivamo a parlare perché aveva la musica, ci copriva completamente. Allora, ci sono due significati che dà il vocabolario su smanettare. Il primo è accelerare velocemente e ripetutamente. Il secondo smanettare. È in informatica, sì. In informatica, nel gergale, compiere numerosi processi su un computer, specialmente di installazione e disinstallazione, al principale scopo di testare le potenzialità di hardware e software. Oddio, ma la smanettare, no, smanettare sarebbe tipo quando dici vai a manetta. Quando dici vai a manetta, stai smanettando perché in un certo qual modo, non lo so. Insomma, ragazzi, nel gergo informatico avete capito cosa vuol dire? C'è Monica, salutiamo Monica, ciao, scusate, Monica. È stato interrotto, ma Monica ci saluta. Sì, ma ci sono tantissime altre persone che devo salutare, adesso le saluterò, che mi stanno ascoltando in questo momento. Saluta. Allora, praticamente, io devo vedere tutte le persone perché sennò poi me ne scordo. Allora, una me la prendo io, già un saluto lo faccio io a Capitan Jack Sparrow, il mio amico Manuel. Creatore anche di un bellissimo social network. Oggi gli ho fatto pubblicità più volte. I soldi arrivano copiosi nella mia postpay dopo che faccio queste piccole pubblicità al mio amico Capitan Jack Sparrow su Facebook. Ed è single, correggimi se sbaglio. Potete aggiungerlo, visto che Bazinga si fa anche portavoce di amore, di prosperità nel mondo del radiofonico e non. Insomma. Allora, praticamente io devo salutare in primis Giulia, che mi dice che io testo spesso la potenza dell'hardware. Dice, questo ci vuoi dire? Che io testo spesso le potenze dell'hardware, perché sai com'è, in ingegneria funziona così: se tu non testi la macchina, poi non è detto che funzioni. Questo è... Non puoi mettere sul mercato una macchina non testata, capisci? Questo è verissimo. E quindi io mi metto sul mercato già bello testato, non so se hai capito. Comunque salutiamo Giulia. Ciao Giulia. Leda, salutiamo Francesco Calabrese, Maria Grazia. Giusi che è a Sambuca, alla sagra delle minne di Virgine. Ma ci diciamo così. Ma non è vero, è la festa della Madonna. Io lo chiamo la sagra delle minne di Virgine. La cosa brutta è che la tua ragazza non lo sa, ma Giusi hai detto: vengo a Sambuca per tastare le minne. No, non è vero, non l'ho detto. Comunque, in ogni caso, aspetta, c'è Giulia che mi scrive fap. Vabbè, lasciamo stare. Giusy, adesso tu ci spieghi, ti metti online, perché non sei online ma ci stai ascoltando, e mi spieghi perché sono... cioè, la storia delle minne di Virgine. Va bene. Comunque, poi salutiamo Antonio Verde, salutiamo Cristina, salutiamo Vania. Ma basta, ma teniamoci un po' di saluti per dopo, magari. Salutiamo Angelo, salutiamo Gianfranco, insomma tante persone. Io avevo un bellissimo argomento di cui parlare, Gabriele, che dovevo parlare anche la settimana scorsa, ma... lo tratteremo successivamente, magari dopo questo bel pezzo che parla proprio, introduce quello di cui volevamo parlare. Scusatemi, ma il primo saluto è sempre per la mia ragazza. Quindi ciao Cetti. Giusy, io ti ho salutata poco fa, forse tu non l'hai sentito. Comunque Giusy non ci vuole spiegare la storia delle mine di Virgine. Dice è qualcosa che ha a che fare con una suora. Va bene, con adesso, una suora. Con una suora. Adesso mi quindi mi una suora violentata probabilmente, una suora. Qui sono state tagliati i seni, evidentemente. Ah, sarà qualcosa di mistico e particolarmente interessante, immagino. Quindi Giusy, informati e facci sapere di cosa si tratta queste mine di Virgine. Deve andare Giusy, si deve divertire, dice. Quindi ciao Giusy, grazie per averci ascoltato anche questo pochissimo tempo che l'hai fatto. Ah, volevo salutare inoltre due amiche che si sono appena connesse. Giovannella che ci ha già ascoltato parecchie altre volte. Di Giovannella, te un punto in più questa sera, hai una presenza in più. Selene Paonita, che è la prima volta che ci ascolta, è la prima volta che sente tra l'altro la mia voce, immagino, credo di sì, non ci siamo mai sentiti live. Ciao Selena. Io sono Vincenzo, se non avete sentito che bella voce sexy. Io sono sexy. Gabriele. Oh, e lui è Gabriele. Lui è Gabriele, mio fratello, abbiamo questa voce abbastanza sexy. Sicuramente è la mia migliore. E il pezzo sotto sono i Daft Punks. Allora, praticamente quello di cui cosa volevo introdurre? Ho messo Love Show di Sky, ovvero la voce che taglia, la voce suadente che scioglie il burro di Sky, con l'argomento ecco qui le campane, come, come sempre abbiamo sempre le campane. Però non le sento perché c'è la musica di a sotto palla, forse tu la senti così, troppo così forte. Così si sente forse. No, vedi che tu non la senti, io la sento perfetta. Tu hai le cuffie alte. Comunque, stavo dicendo, ciao a voi, grazie Selene, ricambia il saluto. Allora, stavo dicendo, love show. Parlavamo di, quindi di amore, love, amore. E cosa succede? Sì, praticamente, quello di cui volevo, mi sono confuso, non mi mettere le mani davanti. Mio fratello mi metteva le mani davanti perché sto troppo vicino al microfono e mi hai fatto perdere il filo del discorso. C'è gente come Angelo che mi dice che saluto, che mi dice che si sente male il microfono perché stiamo troppo vicini ai microfoni. Ah, capito. No, forse Gabriele, se tu guardi qua, se questa pallina verde non va qua, vuol dire che si sente piano. Capito? Quindi tu stai troppo lontano, questo qui va bene. Sì, ma non sono io, è gente che mi dice che si sentono male. Vabbè, mi dispiace la gente, ma io mi sento benissimo. No, comunque, ciao Angelo. Comunque, a parte questo, mi hai fatto di nuovo perdere il filo del discorso. Volevo parlare di amore. Di amore ai nostri tempi. Ovvero, come considerano l'amore le donne e come considerano l'amore gli uomini dai nostri giorni. Io è da qualche settimana che sto facendo un piccolo esperimento. Selene è anche vittima di questo esperimento. No, vittima, nel senso, Selene mi ha conosciuto su un social network che ho frequentato per fare questo piccolo esperimento, per vedere come funziona il conoscersi. Gabri, è troppo piano. Leggi. Si sente male, ha ragione. Va bene. Allora, spero che così si senta meglio. Comunque, dicevo, Selene è vittima di questo esperimento. Ci siamo conosciuti su un social network che si chiama Badoo. Moltissimi di voi lo conoscono, immagino. Ed è popolato da una particolare razza di esseri umani che sono, almeno da parte maschile, che sono, Gabriele, come si chiamano? Come vengono definiti? I morti di figa. Sì. Il morto di figa, Homo affamatus, è una specie in costante aumento nel nostro ecosistema. Trattasi di una degenerazione involutiva del truzzo, del nerd e di vari tipi di poser che colpisce il 99,65% delle suddette specie. È spesso anche un bimbo minchia, almeno a giudicare dal vocabolario limitato e dalle capacità espressive pari a quelle di Biscardi dopo una lobotomia. Tale speciale animale cerca di continuo un qualsiasi contatto con il sesso femminile. A differenza del provolone, però, il morto di figa non raggiunge mai l'obiettivo, neppure una volta ogni 3 anni, limitandosi a guardare e o sbavare sul monitor del proprio PC appena il suo sviluppato olfatto subodora la presenza, anche solo presunta, di un rappresentante del senso opposto. Senso del sesso posto all'altro capo del PC, che è ormai l'unico mezzo attraverso cui cercano di risolvere i problemi di carestia. Ah, interessante. Quindi abbiamo allora, appena che cosa dice un morto di figa? Sì. Quando si ti contatta, no? Esatto. Di seguito il repertorio del morto di figa durante la sua performance su Community e Messenger. E penso che ci sia anche su Badoo qualcosa del genere. E sicuramente Selene, come si chiama? Selene. Ci farà sapere se è vero così. Sei M o F? iCam, iMSN, iPhoto, 22 centimetri reali, fedele. Vieni da me di nascosto, basta non farglielo sapere. Qua è lentissimo, iMSN. Il mio contatto è XXXX e ho cam. Potrei vedere foto del tuo viso? Perché non metti foto? Non sei tu in foto, mandami la cam o ti faccio chiudere il profilo. Che figa che sei, sei una figa da paura, passa da me se ti va. Nauseanti e chilometrici messaggi. Poi, non ho cam, ma mi dicono che assomiglio a Sasan. Chi è? A chi? Sasan, non lo so. Non hai MSN? E come si fa per conoscerci? Sei fidanzata? Tanto non sono geloso. A volte il morto di figa questa qui colpito... non sono geloso è la battuta più triste che possa esistere al mondo. E poi a volte viene colpito di artrite alle falangi e capita spesso di ritrovarsi messaggi monosillabici contenenti o il numero di cellulare o il contatto MSN. Ultimamente sembra vi sia stata un'evoluzione della glottologia del morto di figa e al posto delle solite domande suscitate cominciano a apparire messaggi del tipo ti va di conoscerci o MSN e o cam uguale. Tipo cose del genere. Deve premere con shift interrogativo, invece preme l'uguale. L'uguale, che è lo zero prima. Sì. Io praticamente ho fatto un giro di questi social network. Ora, per esempio, sono in questo momento su Badoo. Aggiungetemi, sono single. Aggiungetemi, insomma, su Badoo. Aggiungetemi, ma che cacchio sto a dire? Allora, sto guardando le foto di una ragazza qualsiasi, Costina di nome è Costina, che ha pagato 2,20 euro per mettersi sulla barra iniziale, come diciamo, tipo come se fosse nella vetrina di Badoo. Che cosa succede praticamente? Succede che questa ragazza ha le fotografie con i commenti dei cosiddetti morti di figa che abbiamo che bei occhi. Ma poi ho scritto occhi, scritto OCHI ed è un Gaetano. Okay. Dalla faccia sembra che abbia come fino a 45 anni e lei ne ha 21. No, perché se ci fai, se lo leggi ok. E poi c'è questo qui OCHI. Sì. Che bello ok. Poi c'è questo qui: ciao, come va? Ti andrebbe di parlare? Sei di dove sei? Fammi sapere, buon pomeriggio. Che cazzo? E l'ha scritto due ore fa. Buon pomeriggio, 2 ore fa. Mi sembra pure abbastanza, diciamo, fuori orario. Come sei, e poi c'è sei bella risp. Ah, a me hanno chiesto di dare loro delle padellate in cambio di ricariche telefoniche. No, è allucinante. Cioè, addirittura io ho sentito una volta che ho parlato con un'altra ragazza su Badoo. Mi ha detto che un tizio, cioè tra l'altro lei nel profilo aveva scritto non fumatrice, e un tizio le ha detto io ti do 100 euro se tu spegni le sigarette sul mio braccio mentre mi tocco. Cioè, tu immaginati che persone popolano questi luoghi, diciamo. È qualcosa davvero di allucinante. Comunque mi avvisano, sì, che si sente male il tuo microfono, sì. E poi inoltre c'è Francesco Calabrese che vuole sapere il nome del sito, sì, del social network che ha fatto Capitan Jack Sparrow. Clicklife.it. Clicklife.it. Comunque sia, tornando al discorso di prima, è davvero scioccante questo. E questa sera per voi, per la prima volta in radio, stiamo facendo qualcosa che non spero non sia illegale. Ovvero abbiamo creato un profilo fasullo su un social network di cui non vi dico il nome, chatta.it. Faccio sempre questa battutina stupida. Io mi chiamo Ramona Pilocco e sono una donna di 27 anni molto disponibile e sto cercando giovani maschi per vedere con che frasi riusciranno ad agganciarmi. Intanto stoppiamo questa e mandiamo un'altra canzone. Questa canzone, Gabriele, l'abbiamo sentita poco prima di scendere, l'ho ripescata e la dedico a tutti i nuovi ascoltatori di questa sera. We'll be right back. hit the floor. Taking inspectors there. No, no, this can't be right. I live an honest life. It seems like sometimes you don't cross the line. To play it safe, but now we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be a daddy, so I leave tonight. No. Bentornati in studio. Speriamo che adesso si senta meglio. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi perché qualcuno mi smanetta il mixer. Ragazzi, siete troppo smanettoni, mi sa. Giulia poco fa, ritornando al discorso di prima, dove si parlava del fatto della storia, insomma, della che tu mi mettevi le mani davanti al microfono, e ho detto tipo, se mi mette le mani davanti, e Giulia dice: tuo fratello mette le mani avanti, fap, e poi ha commentato zoccola il mio profilo su chat.it. comunque Giulia mi ha detto la storia delle mine di Virgini, se vi interessa, e adesso ve la dico. Non so perché non mi sento in cuffia, ho abbassato troppo, come vai. Se non ce l'avessi adesso, proprio la cuffia, non mi sento ancora. Scusa, adesso evidente, proprio niente adesso, ancora di meno. Ah, perché ho sbagliato, poi sono diventato, vai. Ah, ecco, adesso mi sento. Comunque, volevo dirvi, Giulia mi ha raccontato la storia che riguarda le minne di Virgini, quelle famose minne di Virgini, quel dolce tipico di Sambuca di Sicilia, dove per adesso c'è la festa della Madonna, lo ricordiamo ancora, salutiamo quindi di nuovo Giusy, che non ci ha saputo dire la storia. Comunque, mi ha detto Giulia, io la so la storia delle minne di Sant'Agata. In pratica, un soldato importante, chi per lui si innamorò di lei, ma lei in sintesi non gliela calava perché amava il Signore e non voleva concedersi. Lui gliene fa di mille colori, financo a venderla a un bordello per insegnarle il mestiere. Alla fine lei niente, non si corruppe né col corpo né nell'animo. E lui, odiandola a morte, le tolse la femminità facendogli tagliare il seno. Ma il miracolo racconta la storia che dopo che gliele tagliarono gli ricrebbero. Non so se è collegato in modo diretto col dolce, ma diciamo che torna sempre il riferimento al dolce. Quindi quando voi mangiate le minne di Virgine, sappiate che è di una donna che non voleva fare la prostituta. Ah, grazie Gabriele, è davvero interessante, perché davvero ci incuriosiva questa cosa. Comunque dobbiamo, scusami se cambio argomento, dobbiamo salutare i nostri ascoltatori abitudinari. Come dice il nostro amico Bartolo, che a Milano ci ha tirato bacco. Avete ragione, ragazzi. E c'è gente che ancora aspetta di essere salutata in diretta. Ormai i vecchi ascoltatori non fanno numero. Grazie, stasera ne abbiamo tanti, veramente. Non come le ultime due sere, perché non so per quale motivo. Comunque sono troppo confuso in questo istante, quindi non c'è normale che non posso salutare. Poi intanto ti salutiamo. Stasera sono fuori casa, provo ad ascoltarvi tramite cellulare, dice Gabriele Gebbia, ci fa piacere. Allora poi Davide qualcosa l'abbiamo salutato, inoltre va bene così. Ora vi volevo dire che mi sono messa sulla chat, mi sono messa perché sono Ramona Pilocco, sono entrata nel personaggio. Praticamente che è successo? Appena sono entrato mi hanno fatto 382 richieste di chat privata. E adesso uno mi ha scritto, guarda come si... Ah, mi ha mandato una richiesta di video chat, rifiuta proprio istantaneamente. Video chat. Uno a volo. Ciao piccola, posso farti una domanda? Mi dice Marco. Io gli ho detto sì, dimmi. E lui mi ha scritto: come sei vestita in questo momento? Sincera però. Io gli ho risposto: nuda. Ma come nuda? Su. Io gli ho scritto: su sto cazzo. E ancora non mi ha risposto più. Quindi penso si sia... si sia offesa, poverino. Invece cioè, tempo che smanettava. Tempo che ha smanettato veramente per uscire dal sito, perché era questo morto di figa. Evidentemente ci è rimasto troppo male. Poverino, davvero. Mischino, voglio dire. Però fondamentalmente è brutta questa situazione del... È brutta la situazione di come ci siamo ridotti per cercare ragazze. Non tutti, ovviamente. Cioè, io personalmente non andrei mai ad un incontro con una ragazza conosciuta solo su internet, anche se l'ho fatto in passato. Però dico, non andrei mai più ad un incontro con una ragazza conosciuta su internet, perché lo vedo come... non te lo so spiegare, come se fosse contro natura. Come stasera noto che a Vincenzo mancano le parole. Non so, ho perso le parole. Lo sai perché mancano le parole? Perché ho bevuto poca birra ancora e abbiamo parlato troppo. La gola secca. Quindi magari vi mandiamo i Black Keys. Così state zitti un pochettino. Stiamo zitti un pochettino. Scusate. E vediamo se mi ritornano le parole con un po' di birra. Girl is on my mind. Black Keys. Cos'è che sai? Tired of my mind. stiamo testando i morti di figa su chat.it. Ma ce n'è ed è allucinante perché Maumac ora mi ha scritto: ciao, hai voglia di giocare? E io gli ho scritto: come? E lui mi ha scritto: virtualmente. E io: e come? E lui: I come. Quindi no, senza punto interrogativo, I come. Cioè lui già sa. E poi mi va: un altro ti va di fare una cosa perversa per me, con me, però cosa con la K? Io gli scrivo: perversa. E tu digli: chi è versa? Chi è versa? Per chi? Chi è versa? Carino e intrigante. Mi fa invece: accidenti, che nome è Ramona? Io gli ho scritto: hi. E io gli ho scritto sotto: tu invece fai cagare. Lui mi ha scritto: ma vaffa, sei pure maschio. Quindi lui mi ha capito. Di dove? Di qua. Un altro invece mi fa: ciao Chatti. E io: sì. E lui: anni? Io: sono dell'87, fatti il conto, stronzo. Cioè, se uno ti dice stronzo, non senso, chiudi, no? Lui invece: che cattivella, anche io sono dell'87. E io gli ho scritto la risata più fastidiosa del mondo, che è HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI tutte le voglie che ho. Tu ne hai qualcuna in particolare? Sì, quella di mandarti a fanculo. Poveracci, di che squadra sei? Questo mi fa, di che squadra? Cioè, per approcciare con una ragazza in chat mi chiedono di che squadra sei. Scrivilo, San Benedettese. No, Poggi Bonzi. Scusa, scusa, Santa non te la do neanche se mi paghi. Ma cosa? Ah, scusa, Santa non te la do neanche se mi paghi, capisci? Ti ha preso per una santa che non gliela dà nemmeno se la paga. Non so se voglia dire questo, vero, però voglio dire. Poggi Bonzi mi ha scritto: non è andata molto bene quest'anno. Cioè, che lui sa la classifica. Perché esiste la squadra del Poggi Bonzi? Probabilmente lui si era andato a cercare, ha visto che la stagione è finita male. Gli dico: sì, sì. Sì, sì, cazzo. E poi una cosa che in radio non si può dire, guarda. No, non puoi scritto, appena scritto una bestemmia. Comunque io volevo salutare Gianfranco che ci ascolta da un po', ma io non l'ho menzionato, come si suol dire. E poi volevo leggere questa bella cosa che ci ha scritto David qualcosa, un Going 13. È bellissimo. Ascoltate Bazinga, l'unico programma dove si parla di vaccate chattando su Badoo mentre si cerca di sistemare il mixer. Questo è meraviglioso, compa. Ora lo dobbiamo aggiungere sulla nostra pagina. Mentre si cerca bellissimo di sistemare il mixer. Bartolo sotto dice: io ho passato 3 anni su chat.it a prendere i giri morti di figa con account finto. Le meglio risate, compa. Io ti credo perfettamente. Cioè, perché l'ho fatto anche io. Avevamo pure altri account sia su Badoo e vari. Questa sera, però, Badoo non mi ha permesso di. Diciamo aggiungere. Questo mi manda bacetti e fiorellini. Ma vaffanculo. Un Giulio 666. Proprio allucinante. Cioè, e non ho neanche una foto. Cioè, per farti capire, basta che leggono un nome femminile. Ciao, mi piace mostrarlo in cam. Vuoi guardare? Questo che è bellissimo, ragazzi. È una cosa vecchissima siciliana. Ti arriva fino all'ombelico. Vediamo se mi risponde sì. Gli dico: giratelo e sbattitelo nel culo. Vediamo se mi risponde e riesce questo brutto scherzetto. Di dove? Di qua, anche io. Sei sempre così cattivella? No, sono una stronza. Ti arriva fino all'ombelico, non mi ha risposto. Però comunque sappiate che video. Si dice che il T9 di un cellulare contenga più vocaboli del cervello del morto di figa. Questo qui, su questo ne sono sicuro. Perché fondamentalmente diciamo le uniche parole che stanno usando sono cam. Ah, guarda, questo qui che faceva tutto il fighettino prima, che mi parlava di calcio, eccetera. Allora mi dice: ma sei sempre così cattivella? Io ho scritto: sono una stronza. E lui anche ha letto, quindi ha preso l'argomento. Ti arriva fino all'ombelico. Quello mi ha risposto: sì. E ora, compa, con tutto il cuore ti dico. E allora sbattitela nel culo. Sbattitela pesantissima, però se lo merita, quello stronza, stronza che bestemmi. Vabbè, però noi chiudiamo. Cioè, tu che ti stai facendo le seghe su stai facendo degli atti impuri, nessuno ti dice nulla, tu per una bestemmia fai questa cosa. È allucinante. Allora, Gianfranco Stallone dice: acqua di puzzo e femmina nuda portano l'uomo alla sepoltura. Ah, questo è bellissimo, quindi. Questa non la sapevo, grazie. È, diciamo, una traslitterazione di tira chiassà un pilo di scennuta e inacchianata, che è un carro di buoi in discesa, insomma, quel proverbio là. È meraviglioso. Questa sera stiamo facendo un piccolo esperimento curioso e mi sembra che stia riuscendo abbastanza bene. Comunque, sappiate un'altra curiosità, che è una diffusa caratteristica fisica del morto di figa, è il braccio ipertrofico, considerevolmente più sviluppato e muscoloso dell'altro, che invece è atrofizzato e smagrito. Chissà perché. Chissà perché. Poi le mani di un morto di figa sono più abrase di un pneumatico di Formula 1. Causa onanismo olimpionico. Oddio. Mi ha appena contattato Gattone 1980. Io gli ho risposto: dimmi. E intanto che lui cerca di discutere con se stesso il problema di cosa rispondermi o meno, come ci proverà questo Gattone, ve lo faremo sapere dopo questo meraviglioso pezzo dei Pink Floyd, One of These Days. Ragazzi, è ansiosissima. Questa canzone è ansiosissima. Thank you. Bentornati su Bazinga. Dopo questo bellissimo pezzo, bentornati su Bazinga. Molti conoscono questo pezzo perché è la sigla di qualcosa di sportivo, se non sbaglio, tipo 90esimo minuto. No, 90esimo minuto è Tasto Vonei, che oppure bellissima quella che poi io sono stonatissimo, quindi non dovrei, la imiti benissimo, non dovrei cimentarmi, rifallo, bellissimo. Non dovrei mai cimentarmi in questo tipo di attività. Dai, il rifallo. No, non lo faccio. Solo per ammiratrici donne. Praticamente c'è una donna che mi chiede su Facebook di fare questa cosa. Di fare una figata. Hai visto, visto. Grazie. Mi faccio un applauso da solo. Grazie. Praticamente cosa succede? Succede che, diciamo, quello di cui stavamo parlando, appunto, del corteggiamento della nuova generazione, ovvero il flirting via chat. Flirting si può dire? Flirting. Flirting via chat è qualcosa di orribile. Vabbè, se anche non perché, esiste, ce lo inventiamo. Anche modo. Perché, tipo, nella realtà tu non diresti mai a una che hai appena visto, tipo, nel vuoi vedere il mio in un locale, ciao, vuoi vedere mentre mi masturbo? Non credo sia. Che poi non penso ci siano donne che vogliano questo, che si eccitino con questo, con la possibilità di vedere un uomo nudo così appena conosciuto, boh, poi non lo so. Io avevo scritto tempo fa un piccolo articolo. Domenico, devi abbassare l'audio lì nello studio perché sento il ritorno. Dicevo, parlando con un'amica, avevo scritto un piccolo pezzo perché questa cosa mi aveva molto colpito. E da lì ora il mio esperimento su Badoo. E ve lo faccio leggere da mio fratello, che ha la voce più figa e si impappina di meno. È normale, io mi impappino, però alla fine so leggere, si dice. No, non so leggere, ragazzi, però non mi interessa. Comunque, l'amore ai tempi della web era. Sarò di sicuro considerato un inguaribile malinconico, visto già mi sono impappinato. Forse un cretino innamorato del corteggiamento da film. Però secondo me sbagliate, figli miei. Sento raccontarmi e vedo storie in giro per il web, per i social network, che mi fanno quantomeno rabbrividire. Molti che in internet vantano una vasta schiera di ragazze tra i contatti, probabilmente nella vita reale non ci hanno mai avuto a che fare sul serio, perché probabilmente non hanno capito che le donne, anche loro si eccitano, ma non vogliono fare sesso con tutto quello che si muove, almeno lo spero. Un piccolo esempio: se una ragazza commenta una foto su Facebook dove c'è un'allusione sessuale con un semplice ha ha ha ha, non sta cercando di sicuro qualcuno con cui scopare in giornata, magari sta solo cercando di farsi due risate, no? Una ragazza admin di una pagina di meme su Facebook pubblicava ogni tanto dei messaggi di alcuni che le scrivevano: ehi, sei una bella figa, sai, ecco la mia foto del cazzo, e ci mettevano la foto, no? Non era uno o due psicopatici, ma decine e decine. Ora, come dicevo poc'anzi, su Twitter non sarò di certo un esperto di donne, non ho avuto tutte le donne che ho desiderato e se schiocco le dita non ho una biondona al mio servizio. Però, secondo me, non avete capito un cazzo, figlioli. Non voglio fare il guru, però secondo me dovete pensarci due volte prima di fare certe cose, di scrivere certe cose. I tempi saranno pur cambiati, ma arrivare a mandare foto del tuo coso via Facebook per corteggiare una ragazza non mi sembra un gran passo avanti. Anzi, mi sembra una roba animalesca da Super Quark, ci sta pure la canzone. Hai visto? Che forse sti social network, piuttosto che avvicinarci alle persone, ci fanno diventare manici sessuali? Internet is for porn, che c'è una canzone famosa sì, di questo. Non lo so e non voglio saperlo. Continuerò a vivere nel mio mondo, dove ad una ragazza, prima di farle vedere il pene, devi averci qualcosa in comune e magari vederla un migliaio di volte di persona. PS per ragazze: se volete vedere una foto del mio pene, mandatemi un'email. Mi autofaccio un applauso. ma soprattutto l'applauso che non mi arriva, ed eccolo qua, va a te per la tua lettura fighissima, Gabriele. Grazie. Mi lusinghi, sono tutta rossa. Ah, Gabriele Gibbia dice: niente da fare, la Wind non sa cosa sia il web streaming. Mi dispiace. La puntata sarà disponibile in podcast, quindi anche adesso, anche ora ve lo diciamo, perché da circa è la terza puntata questa, no, Gabriele? La terza puntata in podcast. E la terza puntata che registriamo. La prima è stata quella dove eravamo solo io e tu. La seconda è stata quella con i picciotti, con i nostri coinquilini, i Citerellas, che sono venuti la a gente trovarci. Si è divertita nonostante non abbiamo parlato non abbiamo di nulla. Parlato di nulla. Noi praticamente ci prepariamo sempre un piccolo spezzone, un qualcosa di cui, con cui intrattenervi o intrattenerci, perché alla fine, siccome non ci pagano, insomma, il venerdì sera ci intratteniamo anche così. Piuttosto che spendere, ho ruttato, ragazzi, mi dispiace, mi faccio un applauso perché non tutti sanno che io ho rutto. No, me lo sono tenuto, non ho ruttato a bocca aperta. Vince, lo sanno tutti che tu non rutti, com'è vero che le donne non fanno la cacca. Questo è pure vero, questo è pure vero. No, insomma, dicevo, noi molto professionale di cosa si tratta. Qualcuno mi ha contacciato, poi, taggato, poi lo vediamo, insomma. Puoi vederlo qui, magari. Vediamo. Ma che cos'è? Francesco Calabrese, che studia informatica, siccome ha visto il sito, evidentemente, come si chiama? Di Capitan Jack Sparrow, che sì. Di cui non conosco il nome, il vero nome. Come Manuel. Di Manuel. Guarda qui, Vincenzo. C'è scritto controlla merda. Vabbè, tu non lo leggerai mai il codice. Cioè, io il 95% del codice che scrivo, anche quello in PHP di Radio Sisma, la maggior parte delle variabili si chiamano suca. Quindi chi sono io per criticare Capitan Jack Sparrow se chiama controlla merda una piccola funzione JavaScript, voglio dire. Comunque io volevo salutare Vito Migliore che ci ascolta. Vito Migliore, che evidentemente diciamo che in questo nella zona intendo sicuramente Santa Margherita e Montevago è il migliore come giocatore di calcio, perché gioca nelle giovanili del Palermo Ci ascolta sì, e ci sta ascoltando, quindi un saluto e una lode a Vito Migliore che ci sta ascoltando. Che canzone gli mandiamo a Vito Migliore? Vito, adesso ti dedichiamo una canzone, anche se mi dice che non ci sente molto bene, però ti dedichiamo una canzone, non so, fai tu. Gli dedichiamo We Are The Champions, magari no. Non ce l'ho ancora, è un po' prematuro dire We Are The Champions per un giocatore della prima. Ma lui lo sarà, Vito lo sarà. Lo speriamo tutti, anche perché noi... così porti soldi e turismo qua da noi. Io sono dell'idea che Vito lo sarà, perché ho avuto la fortuna di giocarci insieme, quindi posso dire che lo sarà. Ve lo posso assicurare. Ho trovato un pezzo che va bene. Questo qui è un diciamo un invito a pensare che tutto andrà bene. Speriamo che anche per Vito, il nostro amico che diventerà presto un campione, tutto andrà bene. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna feel the day, feel the day, feel the day. I just wanna feel something. I just wanna feel something today. just wanna be okay. Che poi ci sta benissimo col pezzo di Daft Punk. Sì, sì. I just wanna be okay, be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay, yo. Bazinga. Yo, motherfucker. Bazinga. Yo, yo, yo, I wanna get some fun again. Yo, yo, wanna be okay, yo. Bazinga. Bazinga. Yo, time for ass, bro. To have a fun and fun. Yo, yo, I just wanna be okay for you today, yo. La smetti. Anche dai, perché sta, io personalmente, diciamo, fondamentalmente io odio, diciamo, tutto quello che è musica elettronica, house, roba simile. Il cosiddetto tunzi tunzi. Però non riesco a spiegarmi perché, per quale oscuro motivo amo i Daft Punk. Dai, è musica elettronica seria quella, veramente. Ma non è questione di essere serio o meno. Cioè, mi piacciono. Che poi, sentite il testo, vi aumento un secondo. Se voi andate a cercarvi, è un testo molto profondo. Esatto. Se voi andate a cercarvi su Google, diciamo, le lyrics di questa canzone, praticamente c'è scritto Around the World per 52. Quindi dice 52 volte Around the World. All around the world, around the world, around the world. Perché poi c'è il wah wah, quello della chitarra. Sì, sì, sì, sì. Aspetta, eccomi. Dove? Io praticamente ora praticamente ero in contatto col nostro amico Bartolo, che praticamente ci ha detto: ma che tristezza, sono entrato appena 30 secondi e già in 5 vogliono mostrarmi il loro pene in cam con la K. Perché lui mi ha detto via messaggio privato su Twitter che avrebbe seguito il nostro esempio e che stasera si sarebbe dato alla caccia ai morti di figa. Invece Giovanni Narcix, mio carissimo amico, che ci ascolta, dice: wow wow wow, stravacanti, volevate una foto? Eccovela. E lui mi ha postato una foto di un pene, ma non è il suo perché è 8 uguale uguale uguale uguale D maiuscolo. Quindi Giovanni, che ci fai, Giovanni? E uno mi ha detto: ma che è la serata di chat roulette? Dopo settimane. Ah, un altro, Gianluca. Queste stanno arrivando tutti. Ciao, Giaba. Sì. Dopo settimane di assenza, eccomi all'ascolto di Bazinga. Ci sei mancato. Ah, ci sei mancato davvero tanto. Soprattutto perché sei una persona fastidiosa. Poi invece stiamo parlando con la nostra nuova ascoltatrice Selene. Dice: tu non sei stonato, basta metterci un po' più d'attenzione. La stonatura non è altro che prendere la nota e con un po' di pazienza. Ma la gente che mi conosce bene lo sa che io di pazienza ne ho poca e forse nulla, vero Gabriele? Ma io sono un tipo poco paziente nell'apprendere. Direi che proprio è nulla, non è che... Perché ci sia, guarda, se ti deve spiegare qualcosa, non lo so, a livello di matematica... Non ci riuscirò mai. No, è un pessimo insegnante, proprio per la sua scarsa pazienza. Ah, guardate, un ragazzo, Alfista sembra tipo Paolo Bitta del Camera Caffè, scrive: sei troietta. Cioè, come fai tu a trovare una ragazza se la prima cosa che le dici è sei troietta? E io gli ho risposto: a tua madre. Ramona Pilocco si è arrabbiata. Poi c'è Gigino che dice: da punto interrogativo cam. E io gli scrivo: da qua cam de là. Vediamo se qualcosa se risponde. Che cosa vuol dire? Assolutamente nulla. Se risponde dice come, io gli dico suca. Quindi così finiamo. E mi ha detto: stai tranquillo, bevi un po' di birra. Lo sto facendo perché tu non lo sai, però è una cosa che ripetiamo spesso. Mio fratello ha una resistenza alcolica pari a zero, quindi... Infatti, per chi non lo sapesse, sono già sbronzo come un bicchiere di Heineken. Che non è un bicchiere, ne hai bevuto appena mezzo. Vabbè, però è un bicchierone, dai. Sei una persona cattiva, non so da chi tu abbia preso. Sei una persona malvagia. Che posso farci? Bartolomico ci dice: compa, pure a me ci sono falli che girano in quantità, altro che YouPorn. sì, mi è arrivato adesso. A me mi arriva sempre dopo, non so perché. Siamo le nostre campane ci sono mancate. Aumenta il volume così tutti sanno che ore sono. Sì, però si sono persi qualche rintocco. Vabbè, sono le 10, quindi state tranquilli, sono 10 rintocchi, li abbiamo testati e va perfettamente avanti. Avanti, va perfettamente in tempo questo orologio. Ho fatto che sembra che mi tiro di coca, ma no, non è così. Mi continuano a contattare. Pikachu 87 mi dice che bel nome che hai. Che è Ramone. Il tuo, ora gli dico, Ramone è il tipico nome da... Il tuo insomma. Invece fa schifo. Pikachu 87. Come sto cacchio, così chiudiamo anche questo gigino. Fabio Mas, ma quanti. Andiamo, torniamo sul nostro Badoo e andiamo a vedere se c'è qualche altra persona di cui burlarci. C'è praticamente Narcix, che sarebbe Giovanni, che mi dice che io non sono una persona cattiva, i cavalli sono persone cattive. Ah, che quella frase è bellissima. I cavalli. Assassino. Però la cerco e la metto pure. I cavalli sono persone cattive, sapevatelo. Visto che siamo in tema di tema Twitter. Oddio, c'è una donna del nord, si chiama Insolita Donna del Nord su Badoo, che diciamo qualcosa, un incrocio tra Marisa Laurito e Nadia Toffa delle Iene, guarda qua. Non ci assomiglia, è tra Marisa Laurito e Nadia Toffa delle Iene, ovvero Marisa Laurito in quanto estensione e Nadia Toffa delle Iene in quanto inclinazione della testa. Esatto, c'è un tizio che gli dice che lei mia, dice, questo è bellissimo e originalissimo. Ti vorrei teletrasportare in Sardegna. No, ha scritto e poi un altro era sotto. Un bimbo minchia tipo che guardava no, il cacchio, Dragon, questo voglio. Qui avrà minimo 44 anni. Ti vorrei teletrasportare. Poi guarda Enzo, Dragon Ball evidentemente. Enzo dice: ciao puledrona del nord, facciamo 7 chiacchiere. Perché 7 non 4? Ma che vuol dire? Il 7 non è vicino al 4. Ed ha 52 anni. Enzo, l'uomo che non amava i numeri pari. E ha tutte le foto che lui si tiene la faccia. Con la mano in faccia. Oddio, picciotti. È qualcosa di allucinante. Devo pubblicarlo su Twitter. Ha le mani in faccia, non si capisce il perché. Enzo di dov'è questo tizio? Enzo di Reggio su Radio Sisma, lo scrivo ora. C'è Davide qualcosa che dice: uno che ci prova con un nickname come Pikachu 82 si merita davvero tutta la mia stima. Oddio, ma non lo so. Guarda, se sei un nerd amante dei Pokémon, sì. ti do ragione. Vabbè, perché ci sono le ragazze che amano i Pokémon, voglio dire, non è che sia qualcosa di così strano, però sinceramente a me non mi attirerebbe mai una donna che si chiama, non lo so, Charizard 82, non mi interessa. La canzone, come al solito devo mandare una canzone, e se tu ci chiedi una canzone noi... ho perso però perché mentre leggo un tweet rispondo su Facebook eppure io e leggo i commenti che scrivono a quella povera Ramona sulla chat Paprika. Maria, c'è un sacco di gente che ti invia le richieste per guardare la cam. Mi ha scritto tantissime cose. Io ho scritto: il tuo nickname fa schifo, Pikachu mi ha detto davvero. Vabbè, il mio però non è il mio nome. Se Ramone il tuo nome è un bel nome, chissà se hai pure un bel buco di culo da aprire o ti piacerebbe che te lo aprono. Questo Pikachu penso che abbia capito poco e niente delle donne. Qualcuno invece che ha capito tanto delle donne è Elio, di Elio la storia tese, in questo meraviglioso pezzo live fatto da Rezzo nel 97. Ed è cara ti amo, ed è un qualcosa di allucinante e soprattutto di vero. Fidanzati, poi tu mi hai lasciato senza addurre motivazioni plausibili. No, duello. No! Intonatissimo il tizio. Dice Selene: è bella la versione con la Cortellesi, io pure la conosco, la cercherò, la metteremo alla prossima puntata. Tanto godetevela appena passa sto pezzo. Oh mio Dio. Sto facendo dei grow di heavy metal. Elio. Non è vero. Tu non conosci l'universo femminile. La mia spiccata sensibilità si contrappone al tuo gretto materialismo maschilista. Ciò nonostante, Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Cara ti amo, esco da una storia di 3 anni con un tipo. Cara ti amo, non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Rimani in casa. Voglio essere libera. Esci allora con chi ti pare. Non ti interessi mai di quello che faccio. Vorrei palparti le tette. Porco. Mai ti toccherei neanche con un fiore finocchio. Tec. Tec. Bucaiolo. Maremma. Mi drogo, bestemmio, picchio i bambini e non ti cago. Ti amo. Mi faccio invece il culo 14 ore di seguito per mantenerti e ti amo. E io ti lascio per un tossicomane che bestemmia, picchia i bambini, non fa un cazzo tutto il giorno e caga. Sei simpatico. Questa è la vera musica rock, quella con le parolacce, no? Questa direi la merda, è la musica giovane. Mi metto il goldone. Ho un desiderio di maternità. Ho un desiderio di paternità. Mettiti il goldone. Cara ti amo. Mi sento confusa. Cara ti amo. Devo stare un po' da sola. Cara ti amo. Esco da una storia di 3 anni con un tipo. Cara ti amo. E potremmo restare anche semplici amici. Cara ti amo. Aspetta. Fuso goldone. Rimango in casa. Io primi. Esco. Questa casa non è un albergo. Ti passo un cubetto. Non sono una troia. Faccio tutto nel quattro tinto nel ghiaccio e sulla pancia, dopodiché ti scopo bendata. Non sono una troia. Infatti non sono. E allora in posizione canonica. Che palle. Soprattutto sotto. Che palle. Disse la vacca. Oggi mi puzza il culo. Sono la vacca. Ho preso una tracca. Cara ti amo. Sento confusa. Cara ti amo. Cara ti amo. Sento un tipo. Cara ti amo. Non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Ed ora uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è propria dell'idillio dell'amore. No. Perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere e da allora sono traumatizzata. Però possiamo restare abbracciati tutta la notte senza fare niente. Sarà bellissimo lo stesso. Ce lo trocco nel culo? Va bene. Usciresti con me domani sera? E sono un po' stanca e poi forse ho già anche un altro impegno. Beh, poco male, così vedo i miei amici. Sono libera. Mettiamola sul sesso. Ho bisogno di affetto. Mettiamola sull'affetto. Chiaviamo. Io sono come sono. E cerca di cambiare. Ecco, sono cambiato. E non sei più quello di una volta. Tu mi appartieni. L'utero è mio. Eccoti i soldi per la pelliccia. Eccoti l'utero. Evviva l'amore. Ah, grazie, grazie le storie tese. Loro davvero, davvero, davvero hanno capito cosa vogliono le donne, ovvero l'esatto contrario di quello che vogliono gli uomini. Vabbè, si sa quando una donna dice sì vuol dire no, no. Quando una donna dice no vuol dire forse. No, vuol dire sì. Quando dice forse vuol dire no. Vuol dire no. Se non sbaglio. Quindi correggetemi se sbaglio. Io devo fare subito una cosa. Selene, la nostra nuova ascoltatrice, mi ha fatto una battutaccia ed è questa qui, è per te. Dici la battutaccia. No, non te la posso dire perché è brutta. E perderemmo ascoltatori più di quanto non ne abbiamo persi negli ultimi mesi. Comunque, ritornando al discorso di Badu, Vincenzo, se metti la base mi faresti un piacere. Sì. L'ho detto la base. La base, l'hai detto come... Ehi, come amico, metti la base. No, l'hai detto come Giovanni Mucciacci. Metti la base. Che fatto? Sì. Fatto. Adesso posso parlare? Sì. Comunque, ritornando al discorso di Badu, per un utente maschio fare colpo su Badu è possibile grazie a varie tecniche. La prima è quella di inserire foto di John Holmes spacciandosi per lui, preferibilmente con le sue doti in bella mostra, altrettanto valide le immagini di Mandingo o di Rocco Siffredi, similmente abbigliati. L'altra invece consiste nel lasciare un commento che colpisca sulla pagina dell'interessata. Dopo anni di accurati studi, lo scienziato austriaco Wolfgang Wolfitz ha formulato la cosiddetta legge di Wolfowitz. Essa dice che esiste una ridondanza per la quale, nonostante i mittenti e destinatari cambiano, i commenti sul suddetto sito sono sempre gli stessi, cioè Mamma mia quanto sei bella, davvero carina, accipicchia, wow, ciao, toc toc, c'è nessuno, ciao, dove digit, per te facessi di tutto per conoscerti, anche imparare una parola di italiano. Il cioccolato no, il miele neanche, lo zucchero nemmeno, non riesco a trovare niente più dolce di te, questo è veramente da Roberto Anzalone. Molto carino ed espressiva, hai mai pensato di fare la modella? Sono del settore e posso darti qualche dritta. Poi c'è quello che è diretto, che è scopiamo, oppure se vuoi contattarmi, pervertito chiocciolo alza la vista, oppure il paradiso hanno disperso l'angelo più bello, ma stai tranquilla, non gli dirò dove sei. Oddio, questo proprio fa schifo. Che cosa spierate? A questi commenti classici si aggiungono le immagini realizzate in asci, in codice asci, spesso raffiguranti un fiore, un gattino, un sole o Giuliano Ferrara mentre fa la colazione. Che cosa mangia Giuliano Ferrara a colazione? Sì, è molto romantico. Giulia ci corregge, dice le donne parlano in questa maniera. Parlo anch'io così perché ho super quark sotto. Certo, perché lei è psicologa, quindi e lo quindi sa. Dice le donne quando dicono forse dicono ripensaci, quando dicono sì dicono ti faccio contento, quando dicono no ma se insisti cazzo, quando dicono no col punto esclamativo dicono no col punto esclamativo, quando fanno lo sguardo truce dicono no e se apri bocca sei morto, quando dicono sì col punto esclamativo dicono sì col punto esclamativo. Quindi grazie, grazie mille. Ho pubblicato la foto Gito, mi manca Around the World, non so perché. Ah sì. scusami, lo mandiamo subito. Eccolo, ah. Sì, Around the World, yeah, sì. Yo, Around the World, yo Bazinga. Yo, Bazinga. Questa è Bazinga, yo Bazinga. This is Bazinga for me and for you, yo Bazinga. Lo dovremmo smettere di fare. Dai, la base è figa però, dai. La base è figa, però tipo fare rap. No, scriverò un testo per questo rap. Esatto. Proprio alla Eminem. Facciamo solo i primi 12 secondi. E poi tra l'altro mi arriva anche una correzione. Vediamo qual è la correzione. Correzione, sta per scrivere no e puntini, dice potresti insistere, sarebbe meglio. È vero. Quando dicono no coi puntini. Come Vincenzo, avevamo una canzone, senza che ricordi. Sì, no, prima di mandare la canzone volevo precisare altre due cose. Praticamente, contemporaneamente, Bartolo, il nostro amico Bartolo amico, sempre questo gioco di parole stupido che mi eccita. Il nostro amico Bartolo, il nostro amico Bartolo amico dice... Uno che c'è proprio, no aspetta, questa qui dice: a me attirerebbe una donna che si chiama Squirtle82. Ed è la stessa cosa che ci dice Giulia. Dice se ti chiama una che si chiama Squirtle84 non le rispondi. Quindi hanno avuto la stessa pensata, ovvero che fondamentalmente diciamo Squirtle è come dire il Pokémon più sexy, il Pokémon che magari potrebbe attirare di più. Io non riesco a trovare la canzone. Comincia con la M, Vincenzo. Non so se... No, non inizia con la M. La cantante è con la C. Bravissima, hai visto che l'abbiamo trovata? Ha indovinato. Comunque questa canzone non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando. E soprattutto con quello che abbiamo fatto, ma è una richiesta. Me l'ha richiesta Francesco Calabrese, che è un amante di Titanic. E soprattutto non è gay, lo dobbiamo dire, perché anche se ama Celine Dion non è importante, gay. Importante. Comunque alla fine lui muore. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between. one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Ragazzi, pensavo che non c'entrasse niente con il discorso che stavamo facendo, questa colonna sonora. Ed effettivamente non c'entrava. Però Francesco mi ha detto: io, certo che c'entra, io le ragazze le conquisterei con questa canzone di sottofondo. Non hai capito niente, Francesco, perché le ragazze le devi conquistare mostrandogli le foto del tuo pene su Facebook oppure su Badoo. Comunque, e se non lo sai. Il SPLPD, che sarebbe il sindacato per la protezione degli iceberg, ha fatto causa al film Titanic per aver maltrattato un iceberg reale durante le riprese. È per questo che Avatar è andato in onda così tardi. Sì, sì. Che i soldi. E il fan club di Leonardo DiCaprio contro quella culona di Rose per non averlo salvato. Poi le fan si sono accorte che era solo un film ed hanno detto: non sapevamo che la storia del Titanic fosse una storia inventata come Jurassic Park, Star Wars e La vita è bella. Ma non è vero. Oddio. Però vedi, rispetto a quando parlavo, cioè nel senso, noi solitamente la radio la facevamo così. Sì, cioè ti senti un po' in imbarazzo perché non hai con niente. Invece se hai sotto questo qui, poi chiacchieri, no? E mentre chiacchieri balli, no? Con il soprattutto culo, se hai due birre in corpo, a stomaco vuoto. Io sono ubriaco anche con mezza, però praticamente sei contento con un pezzo dei Daft Punk sotto, voglio dire. Perché dato che ieri era giornata nomofobia e voi siete i tizi più anti-omofobi che conosco, propongo Baracca, Sorry I Am a Lady. No, questa qui non lo so. Baccara. Ah, Baccara. Penso sia Baccarà. Baccarà. Baccarà. Ho scritto Baracca. Ho detto Baracca. Forse perché siamo stati terremotati. Scusa, compa, se ho letto male. Siamo abituati in questo senso. Oggi è la giornata, compa, mi hai appena fatto uno dei complimenti più belli che ho mai sentito. Voi siete i tizi più anti-omofobi che conosco. Questo mi fa davvero piacere che lo pensi. Perché sul serio io odio davvero I gay. No! Perché i gay non sono in grado di, cioè, nel capire senso la differenza tra... No, sto scherzando. No, ovviamente stiamo scherzando. Noi siamo totalmente... Ti immagini tipo i gay? No, anche perché lui ci conosce di persona. Non facciamo nomi, ovviamente, per privacy, però... Certo, Giuseppe ci conosce. Giuseppe, il nostro amico, ci conosce gay, quindi... poverino. Praticamente... questo qui davvero è il complimento più bello che mi hanno fatto, non lo so, negli ultimi mesi. Essere la persona più antiomofobica. Grazie per non insultare i gay, praticamente. Ed è vero, beh, cioè nel senso, noi li insultiamo, ma si capisce che stiamo scherzando. Che personalmente io non ho nulla, assolutamente nulla contro i gay. E mai ce l'ho queste persone malate che purtroppo, diciamo, stanno sporcando la nostra società bella cristiana, dove tutto va bene, dove i maschi si fanno le femmine, dove si fa sesso solo per procreare, solo dove per procreare, soprattutto, esatto, come il nostro amico Giuseppe diceva, dove non si mangiano crostacei, perché mangiare, esatto, crostacei come l'omofobia come l'omosessualità sono scritti nello stesso libro, ovvero, se non sbaglio, è non vorrei dire cazzate, qual era tutto, Ezechiele, lo cercherò comunque. c'è scritto sopra chi mangia crostacei fa abominio. E poi sotto c'è scritto: se vai a dormire con un altro uomo fai abominio. Quindi mio fratello ha fatto abominio in questo fine settimana perché ha dormito con il nostro amico Danielotto. Ah, questo è vero, ho dormito nello stesso letto di un uomo e ho fatto abominio allo stesso tempo. E ho mangiato pure dei gamberetti ultimamente, quindi sono condannato a bruciare. Quindi stai tranquillo Giuseppe, andremo tutti all'inferno allo stesso modo. Sì, ci vediamo là. Non c'è differenza tra i gay e le persone eterosessuali. C'era un tizio bravissimo che diceva: non preferisco il paradiso per il clima e l'inferno per la compagnia. Siamo qui. E mi era partito pure un pezzo dei 99 post per farvi capire, perché mi ero distratto per difendere, perché Selena diceva la vita è bella, è una storia inventata, io dicevo è un'enciclopedia, è satira scadente, però è un'enciclopedia. Comunque ci ripete di nuovo il nostro amico Giuseppe, il ragazzo omosessuale, che mangiare crostacei e abominio è scritto nel Levitico. Levitico, hai visto che avevo ragione, insomma, Levitico. Quindi insomma, se voi siete cattolici e avete mangiato un gamberetto, state facendo lo stesso peccato di andare a dormire con un uomo facendo sesso, praticando sodomia, insomma, o roba simile. Dunque, o giù di lì. Quello che avevate sentito era Steve Ray Vaughan. Io ci tenevo a dirlo, perché vi consiglio di ascoltarlo, perché è stato veramente un grande della musica e blues, electric blues e Texas blues, perché a mio avviso è uno dei più grandi chitarristi della storia. Ah, senti qua, guarda, io intanto ho rimorchiato un altro tizio che si chiama Sexy83, uomo di Milano, 26 anni, e mi dice non si vedono i messaggi di prima, porca miseria. Praticamente diceva ciao, I come. E io gli ho detto: scusa, hai mai avuto una ragazza provandoci così? No, ma tante sì. Cioè, scusa. No, perché tu hai detto una ragazza e lui ha detto no, tante. Ah, perfetto, no, ma tante sì. Ho tanta voglia però. IMSN gioia. Io ho scritto 80 voglia. No, sì, esatto, vero. E poi tipo sotto ci fa: come fai a pensare che una donna possa fare qualcosa per te provandoci in questa maniera? E io ho scritto: almeno corteggiami, stronzo. Lui mi ha detto: vediamoci in cam e ti corteggio. Sei proprio simpatico, mi piace, sei proprio dolce. Quando io ho detto solamente tre frasi: sei in onda su una radio e sei stato sputtanato, il profilo è un falso per cacciare i morti di figa come te. Vediamo cosa risponde. Secondo me si impicca. Poverino, abbiamo sulla coscienza questo milanese Sexy83.

Vabbè dai, insomma, è una canzone bella e tutto il resto, però queste campane non ci stavano. Ci stanno benissimo, ci stanno nelle canzoni dei Daft Punk. Non vedo perché non debbano stare anche in una canzone di Ligabue, che è il cantatore più sopravvalutato della storia italiana, immagino. Comunque, praticamente che succede? Java mi ha detto su Twitter che tu sia lodato perché tengo lontano i bimbi minchia da Bazinga. Davide qualcosa invece dice: non ci sono bimbi minchia che ascoltano Bazinga perché è un programma culturalmente elevato. Io ho risposto col cazzo, ma ovviamente ho letto il suo sarcasmo e ho rilanciato, perché probabilmente, cioè, se il programma fosse sarcastico? Credo che sia sarcastico, perché non credo che abbiamo mai fatto, diciamo, cultura. Abbiamo parlato di romanzo storico, anche se ce lo potremmo permettere. Adesso lo faccio. Se ce lo potessimo permettere. I congiuntivi questa sera vanno a fanculo, va bene lo stesso. Vabbè dai, se lo potessimo fare non lo fremmo. Non lo premmo, voglio dire, dai. E poi c'è Monica, che una nostra ascoltatrice, che praticamente... Se volete potrebbe leggere qualcosa. No, aspetta un secondo. Monica dice che ha cambiato nickname in Melasuki, scritto M-E-L-A-S-O-O-K-I-E. E Melasuki dice: a me spesso hanno chiesto se potevano leccarmi i piedi o farsi calpestare. Quindi davvero esistono davvero tantissime perversioni che noi magari ignoriamo, per fortuna, oddio. Io non so quanto mi ecciterei, tipo, se facendomi calpestare da una donna. È qualcosa da provare, però non si sa mai, voglio dire. Poi il nostro amico Narcix ci saluta e dice: mi dispiace lasciarvi, ma la vucceria chiama. Ricordo che l'Islanda ha mandato a fanculo i debiti alle banche e noi li abbiamo messi al governo. Monti vaffanculo, dice Giovanni, va bene. Ma se la W significa forza, la M significa basso? Questo non lo so, compa. L'ho retweet, vediamo se qualcuno mi risponderà. Allora mi dice Bartolomeo, dice: bimbi minchia sono a suonare le campane per darvi fastidio mentre vai in onda il fantastico Bazinga. No, quello ci dispiace dirlo, ma è il comune di Santa Maria. No, però purtroppo è vero, cioè che ci sono dei bimbi minchia qua sotto, perché poco fa mentre facevamo, abbiamo mandato il pezzo, quello dei Pink Floyd, sotto c'era qualcuno che urlava. E tu cos'hai detto? E io mi sono facendo, ho detto e loro si sono ritirati. Non si sono ritirati, hanno detto Hanno risposto da buoni pecuraris o pastori per gli italiani. Non c'è più rispetto, esatto. Vediamo se quel tizio là mi ha risposto. Vediamo. Ce l'ho qua. Mi ha detto: ora che devo fare? Salutare qualcuno. Ciao tutti. Vai a farti un giro. Ciao a tutti. Quindi saluta gli ascoltatori, il nostro morto di figa che abbiamo sgamato. Vabbè, se l'è uscito alla grande, dai, si può dire. E invece un altro Bruco mi dice: palermitana, palermitana. Quindi si eccita solamente con la mia provenienza. E lei ha scritto Suca. E io ho scritto Suca, la buona palermitana, la buona Ramona. La nostra Ramona. Intanto si è connesso sulla chat di G-Talk, di Gmail, il mio professore di fisica, che saluto. Sicuramente non ci sta ascoltando, ma io lo saluto lo stesso, voglio dire. Ci dice Bartolomeo: allora vi serve una K47. Oh, penso. E c'è anche un'altra ragazza che ci saluta, dice Valeria da Palermo, dice: Bazinga, vi sto ascoltando, saluti da Palermo. Ah, ciao Valeria. E io ti dedico 6 minuti di Bazinga, ora vediamo se riesco a trovarlo. Dove sei? Me lo sono perso. Ah, l'ho minimizzato, quindi non si vede. E io a Valeria dedico questo. Bazinga. Va bene, Valeria. Ah, aumenta di nuovo. Bazinga. Questo è tutto per te, Valeria. Grazie per averci ascoltato questa sera. E visto che sei appena arrivata, e visto che sei una ragazza abbastanza chic, ti mando una canzone che è abbastanza chic. E la dedico a te, Valeria, nostra ultima ascoltatrice di questa sera. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your fish bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Selena, la nostra nuova ascoltatrice, dice è bellissima. Lei, Selena, è anche una cantante, probabilmente diventerà professionista. Noi facciamo i migliori auguri. E li facciamo anche a Momo Alagna, Milasuki, che... No, che nome hai, porca miseria. Non si può nominare, non si può dire, porca miseria. Ah, e poi ho invitato Selena, ho detto, sei ospite, sei invitato ufficialmente a fare gargarismi in diretta. Su Radio Sisma, sul nostro programma Bazinga, quando ti troverai nei paraggi, ovvero mai probabilmente, sei invitata a fare i gargarismi. Have you ever seen the rain? Ora vediamo se riusciamo a trovarla, Valeria, e la mandiamo. Comunque, te lo giuro. Abbiamo deciso con Giabba 90, il simbolo dei morti di figa, che è parentesi aperta, Y parentesi chiusa. Che cosa vuol dire? Guardalo, basta guardarlo. È una tetta praticamente. No, non è una tetta, ma è una vagina, penso, no? Penso. Quindi scrivetelo tutti, parentesi aperta, Y parentesi chiusa, e vedete cosa vi esce praticamente. A proposito di morte di figa, dobbiamo ricordare un nostro vecchio amico, che è Luca Antonini 62 di Twitter, che praticamente è quello là, il tizio che scriveva i tweet minatori a Nina Senicar. Praticamente qualche mese fa ha cambiato obiettivo e ha si è spostato su Melita Toniolo, e dice che non ci vediamo, dice: ho voglia, che ho il desiderio che tu mi possa telefonarmi, e gli dà il numero di telefono. Io gli telefonerei, sai, ma gli dobbiamo telefonare. A chi? A Melita Toniolo? No, a Luca Antonini. Provaci. Perché dal numero di telefono? Come si faceva l'anonimo? 42? No, cancelletto 31. No, cancelletto 31, non è detto dal telefonino. 42 93, una cosa del genere. 3268109. Vediamo se riesco a farmi uno squillo anonimo al mio telefonino. Ma tra l'altro qua dentro neanche prende. Vediamo se ci riesco. 429. Vediamo che dice. Informazioni gratuite. Il numero selezionato non è raggiungibile. No, no, no. Ah, l'ho probabilmente spento. No, no, sono io. Probabilmente tipo non è questo il codice per falso. Se conoscete il codice per falso per fare le chiamate anonime, telefoniamo a Luca Antonini. Andate su Twitter, twitter.com/LucaAntonini62, tutto attaccato, e vedrete che ci sta provando come una bestia con tutte le VIP buone, diciamo, tipo Nina Senecar. Gabriele, me li leggi due tweet? Se mi dai il link, te lo mando. Sì, te lo mando su Facebook. Dove sei? Riesco a leggerlo. Dove sei? Comunque si è connesso Roberto Anzalone, lo salutiamo, sicuramente ci starà ascoltando. Roberto, Robertone, certo che ci sta ascoltando. Il grande Robertone. Ma tu non sei connesso, Gabriele? Sì, che sono connesso, ti ho appena scritto una cosa. Mi è appena arrivato. Mi hai scritto DGFG. È per fare capire che ci sono. Ecco di qua il link di Luca Antonini. Leggiamo due belle frasi di Luca Antonini. E poi mandiamo. Mentre cerco una canzone. Come abbiamo detto prima, scriveva a Nina Senecar. Ma qua ci sono ancora. Mi sa che ha ripreso con Nina Senecar, no? Ah, sì. Sia una volta per tutte. Ora vedo se lo fai di dare una svolta. Se no, qui non ci siamo. Ora dove sei che io ti voglio e non posso stare senza di te? Lo capisci questo? Ricordatelo bene, una volta per tutte, che qui non ci siamo e non si va appunto d'accordo. Mi raccomando, io voglio te e basta. Che tu mi possa dare molta collaborazione e tua partecipazione. Che tu possa collaborare. Che qui non vedo nulla e non vedo nessuno. Io ti voglio e basta. Io ho bisogno di te e di dare una svolta. Che te vedo te, ne freghi, capito? Pensi per te, io ti voglio e basta. Io ti voglio assolutamente e privatamente. Che te non devi andare con nessuno. Devi venire con me. Che qui bisogna dare sfogo a questa cosa. Assolutamente che io non voglio mollare a questa cosa. Che io non voglio perdere, che io ho fatto tanto, che qui non vedo nulla, ma qui non c'è punta collaborazione. La partecipazione io lo voglio e basta. Scusami, io ti voglio e basta. Che io sia a qualunque costo, Christian. Dive sei, se leggi Twitter, che chiamami, che io ti vorrei dire delle cose a questo numero. Io dal numero, e mi raccomando, e mi scuso per ieri sera che non ti ho potuto rispondere. Io ho visto delle cose che mi hanno fatto rabbia, che ho visto questo gossip su di lei e di questo uomo sconosciuto, e mi ha fatto rabbia perché lei è mia e non la voglio perdere. E lo capisci questo? Non vuole perdere lei, sì, Nina Senecar. E lo capisci questo, che qui non si va d'accordo e non ci siamo. Lei è mia e deve essere mia, non deve andare con nessun altro. Mi raccomando, fate qualcosa, che qui non vedo nessuno, non sarà niente, speriamo che sia una cosa passeggera, ma voglio che sia la mia ragazza, tienilo presente, d'accordo? Ora vedo se lo fai, dillo al suo manager, dillo ad Ercole, dillo a tutti quelli che sono intorno a lei, che io non voglio essere presa in giro. Non mi sta bene, d'accordo, che io sono molto arrabbiato, va bene? La voglio io, e lei è mia, che lo deve essere, d'accordo, una volta per tutte. Dillo, parlatene. Ma come fa? Oh mio Dio, ma quante ne scrive? È uno psicopatico abbastanza. 4793, mi dicono, 4793, ora vado subito a vedere se funziona, vediamo. 4793 è il numero, perché tra l'altro è pubblico, quindi non faccio reato a dirlo. 338 88 15 929 Luca Antonini, il tizio psicopatico. Ho sbagliato 4793 338. Mi sta dando i numeri, mio fratello. Ambo. 15. Scusami, no. 15, 92, 9. Premo. Vediamo. Togli la musica. Leva questo che abbassa. Ti prego, chiama. Ti prego. Fastweb. No, è Fastweb quello nostro. Il numero selezionato non è raggiungibile poiché sulla linea telefonica è attivo il blocco permanente delle chiamate a sovrapprezzo. Ah, porca miseria. Ah, vabbè, quindi è una chiamata a sovrapprezzo. Il Radio Sisma non ci permette di effettuare chiamate con sovrapprezzo. Ma lo farò magari col telefonino, qualche volta quando riuscirò. Ah, chiamate anonime se è Telecom. No, domani è Fastweb. Dobbiamo riuscire a trovarlo. Vedremo se ci riusciremo. Comunque, Valeria, la nostra nuova ascoltatrice, ci ha richiesto una canzone dei Creedence ed è Have You Ever Seen the Rain, e la mandiamo. Eccoci. Stiamo facendo prove tecniche per vedere se riusciamo a chiamare il tizio famoso Luca Antonini. Luca Antonini. Vogliamo parlare con lui veramente, perché non so che cosa c'è. Cos'ha nell'immagine? Sembrano dei portici. Che cos'è? Ah, non ho capito che cos'è. È un acquedotto romano. È l'antico acquedotto romano. Comunque sia, vediamo se il nostro tecnico di regia, Domenico, ci aiuta a trovare il numero. Vediamo, funziona, tu già l'hai provato. E funziona. Funziona perfettamente, quindi scrivilo, asterisco 67, e poi io metto il numero appresso. Stacchiamo questa musica e vediamo, asterisco com'è, compa? Asterisco 67, cancelletto. Cancelletto. Ora andiamo a mettere il numero, ovvero 338 88 15 929. Pronto, salve, sono Nina Senecar. Sono Nina Senecar, faccio la voce. Sono Nina Senecar, mi dice. Si sente, tu lo senti? Sì. Funziona vero anonimo, compa, non è che ne avessi a arrestare. Funziona, funziona. Mi chiama poi. Luca, sono Nina Senecar. Pronto? Luca? Allora. Luca, sono Nina Senecar. Luca? Allora? Sono Nina Senecar. Eh? Nina Senecar. Dov'è? Sono qua a Roma, Nina Senecar. No, non c'è. Sono io, Nina Seneca, a Roma. Va bene, via. Dopo che fare, che sei ok? Loca? Sì, sì, sì. Che fai, ma so che? Loca? Sì, sì, sì. Ma so che, Luca? Luca, sei in onda su Radio DJ? Sì. Sei diventato famoso perché su Twitter stai importunando i VIP, ma perché lo fai? Perché... cosa hai detto? Sei in onda su Radio DJ perché su Twitter abbiamo scoperto il tuo profilo che importuni i VIP. No, non ho importuno VIP. E che cosa fai? No, mi iscrivo. Gli scrivi? Ma perché gli scrivi, compà? Perché io sono interessato a una persona. E a quale persona? Chi è? Chi è? Nina Senecar. Ma perché ti piace così tanto Nina Senecar? Perché c'è un debole e che mi piace e ne voglio bene. Ah, e quindi stai cercando, diciamo, in un certo qual modo di portarla dalla tua parte? Sì, sì. E ci riesci? Ti ha mai risposto? Per desiderarla, conquistarla e frequentarla. Ma ti ha risposto Nina Senecar? Mamma mia. Per ora non ancora. Però diciamo che se tu, compa, perseverare, devi continuare a perseverare, perché prima o poi Nina Senecar te la darà, secondo me. Speriamo. Speriamo, voglio dire, ma è sempre meglio di stare a digiuno, no? Voglio avere una Nina Senecar al lato è meraviglioso. Sì, speriamo che venga. Speriamo che venga. Aspetto. Certo. Senti. Sì. Io non ho portato nessuno, io la... mi dico le mie cose. Sì. Quindi non è importunare. Va bene, compa. Noi siamo contenti per te. Speriamo davvero che prima o poi ci riesci. Quindi ce lo fai un saluto. Ciao. Saluta ciao, tutti i radioascoltatori. Saluta i radioascoltatori. Io sono Luca, quello che parla con Nina Senecar. Ciao, sono Luca, quello che si vuole mettere con la Nina Senecar. Ok, Luca, buona serata, compa. Ti voglio bene. Sì. Io la voglio. L'ho capito, vabbè. Noi intercediamo per te, vediamo se riusciamo a parlare con Nina Senecar e combinare una chiamata. Va bene? Io ho bisogno di lei. Ho capito, vabbè. Quindi ti saluto, una buonanotte, ok? Sì, ciao, eh. Ciao, compà, fai il bravo e non importunare Nina Senecar. Ciao. Ciao. Ragazzi, ci ha risposto. Abbiamo parlato con Luca Antonini. Ragazzi, questa puntata è mitica. Oddio. Abbiamo parlato con Luca Antonini. Oddio. Ah, miccio, sono rimasto contento. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo parlato... io non ho infortuna. No, non era ubriaco, o aveva qualche problema mentale. Sì, sicuramente. Secondo me era fatto di eroina. Perché non lo so, possibile. Poveraccio. Non è possibile essere sobri e parlare in questa maniera. Avete appena sentito Luca Antonini in diretta su Radio Sisma. In diretta, guardate ragazzi, qualcosa. Io lo sento in cuffia, vi posso dire che è qualcosa di spettacolare. È come sentire la voce di un beep e essere citato in questo. Oddio, picciotti, questa puntata mi sta piacendo in una maniera esorbitante. È tutto registrato. Se è volete, tutto registrato. Se volete riascoltarlo, io ora, dopo abbiamo che i podcast su Radio Sisma. Porco, ti ricordo. Giuda. Oddio. Me lo registro questo podcast e me lo metterò come sogneria. Luca Antonini pronto, io amo Nina Senegal. Io l'amo perché ho bisogno di lei. Oddio, poveraccio, mi schifo. Speriamo per lui che non sia fatto, ma che sia proprio così di natura. Io vi mando un pezzo. Io direi il contrario, ma comunque va bene lo stesso. Oddio, questo... speriamo che sia fatto, che non sia, che così, non sia di natura. Scusa, ho sbagliato, insomma. E intanto salutando Johnny Romano, che non ci ascolta da un po', compa. Questo è non va bene. Dice, collegato di ritorno al comizio del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo eccezionale. C'erano 10.000 persone. Speriamo che Parma sia davvero nostra, la nostra Stalingrado. Quindi grazie Johnny per averci ascoltato anche questa sera. Bellissimo. Ci abbiamo telefonato a Luca Antonini. È un VIP, compa. Io lo so che in fondo io lo amo, perché tu devi capire che io, perché io sto bene con te, quindi tu mi devi amare. E porca, quindi vuol dire che tu non vuoi che io non voglio che stare con te, perché io sto bene, capito? E quindi tu non me lo devi fare questo, che io sto male. Su Twitter c'è Marco Meli, dice, ma chi è sto ritardato? E il tizio Luca Antonini 62 che su Twitter importuna Nina Senicar. Poi dice Bartolomeo, dice, compare, però Radio DJ che dice minchia, compare, è favolosa. Lo so, ma io mi sono parato il culo dicendo Radio Sisma ce n'è una. Radio DJ, casomai inculano a Albertino. Radio DJ. Io vi mando il mio pezzo preferito prima di mandarvi poi l'ultimo pezzo e poi andare a dormire alle 11. Questo qui è ci dice David qualcosa, lo vogliamo ospite in tutte le puntate di Bazzina. Ma sì, ora ci chiamiamo sempre d'ora in poi. Black Keys, Tighten Up. Bound to fall for you. Torniamo, ragazzi. Abbiamo parlato con Luca Antonini. Io credo che da quando faccio radio, ovvero da settembre fino ad agosto, posso dire di poter appendere la questa giornata al chiodo. Questa giornata è stata epica. È stata epica, sul serio. Mamma mia, cioè, era da una vita. Mi diceva, parlavo con Selene poco fa, diceva diceva poveraccio, io ho detto era da anni che volevo farlo. E mi dice, io l'avrei già fatto da tempo, quindi lo so, è bellissimo. Mamò dice, minchia, siete dei fottutissimi geni. Dai, ah, dai, scusa, meglio, grazie. Bartolo dice, però Radio DJ che dice minchia compà è favoloso. Lo so, mi è venuto spontaneo. Minchia compà. Quello che diceva invece Giab, ovvero di implementare la rubrica La chiamata in ogni puntata, sarebbe da fare davvero. Io dicevo, ma piuttosto che fare La chiamata di Belpietro, che è uno dei programmi più stupidi dell'universo, credo. Voi non lo sapete, ma lo Zoo di 105 ha tantissime denunce proprio per questo motivo. Sì, per questo motivo. Per cui non so se sarebbe una buona idea per noi, soprattutto per l'associazione Sogni d'Oro che ci ospita, quindi non so se sarebbe bello. Bartolo dice, potreste organizzare una sorta di bastardata del venerdì sera piuttosto che la bastarnata del giorno, come fanno su perché no. Buon proseguimento di serata. Va bene. Ah, se ne va Gianluca. Ciao compare, grazie mille dell'ascolto questa sera. Abbiamo già sforato di un minuto. Io preparo il pezzo di chiusura, come voi tutti i nostri ascoltatori sanno. Il miticissimo, il super stramega figo Jimi Hendrix, con Voodoo Child. Intanto però prima dobbiamo fare dei saluti. Gabriele, non dobbiamo salutare nessuno. Mi stai guardando, ci siamo guardati adesso come poker face. Esatto. Dire, cosa stai dicendo? Perché non abbiamo nulla di organizzato, come voi sapete. Non era prevista la chiamata a Luca Antonini, quindi quelle, le cose fatte a cazzo evidentemente riescono, funzionano alla grande, le migliori. Infatti ancora una volta faccio quello che ho fatto la settimana scorsa, ovvero prendo il programma che abbiamo fatto per questa sera e faccio questo. Ecco, perché avevamo tantissime cose di cui parlare. Alla fine si va sempre, abbiamo parlato sull'assurdo, dei morti di figa. Si va a parlare sempre di morti di figa, di cose che non c'entrano niente e con questa quello che sera, avevamo scritto. E questa sera abbiamo parlato con Luca Antonini. È una cosa davvero allucinante, allucinante, allucinante. Io sono davvero contento che tutti voi ci abbiate ascoltato così numerosi questa sera e che ci seguiate sempre. Questa puntata è registrata. La cosa importante è questo, che la puntata è registrata. Guarda, quindi potrete gioco. Riascoltarla. Potete riascoltarla. E soprattutto io adesso, appena si salva, me la prendo e me la porto a casa e mi taglio il pezzo di Luca Antonini. Ah, sono davvero contento questa sera. Quindi ragazzi, comunque ve lo voglio dire, l'ultimo messaggio di Luca Antonini è stato scritto il 16 maggio nella Senegar e dice, tanto per cambiare, io ti voglio e non ci siamo, ma io ti voglio lo stesso e non ci siamo. Questa persona è da stimare, è un morto di figa coi controcazzi, ragazzi, Luca Antonini. Quindi io volevo salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera. Ci ha ascoltato anche Anna Love My Cat, che ha retweetato uno degli ciao ultimi Anna, tweet. Ciao Anna, ciao Anna. Giaba che ci ha ascoltato, Bartolo Amico. Grandissima nostra follower. Stavo dicendo, Gabriele Ciaccio è un artista, ma sei tu, quindi è normale che ci ascolti. Marco, mi sono autoascoltato. Marco Meli. Poi abbiamo dietro Monica ci ha ascoltato all'inizio. Detto David qualcosa. Compa, io non so tu chi tu sia, però tu hai una birra pagata perché ci hai sempre ascoltato. Fantastico. Grazie mille. Dobbiamo ringraziare voi se Bazinga va avanti. Avanti, esatto, perché sennò noi ci annoieremmo. Salutiamo Narcix e poi tutti i nostri amici su Facebook che mi contattano come un pazzo. Quindi volevo cogliere l'occasione per dire che io magari vedete che su Twitter non scrivo molto, che magari mi limito a retweetare oppure a mettere tra i preferiti, perché non ho molto tempo di scrivere, perché c'è un sacco di gente su Facebook che scrive a me. Ecco, esatto. Devo rispondere. Poi volevo salutare anche Selene, che è la prima volta che ci ascolta. Valeria, che ci ha ascoltato. Silvia, che un ci ha ascoltato. Un saluto a voi. A tutti gli ascoltatori. Mi dispiace se qualcuno magari l'ho saltato, ma ci sarà tempo per recuperare. Insomma, grazie mille per averci ascoltato. Ci sentiamo presto con Bazinga. Un ragazzo, Fabio, mi ha mandato un pene via Facebook. Non so come l'abbia fatto, quindi grazie per avermi mandato un pene via Facebook. Compà, c'è sempre il compà. Quel fantastico classico compà di Radio DJ. Radio DJ. Ancora grazie per averci ascoltato. Vi lasciamo con lo zio Jimmy. Una buona nottata e ancora grazie. Buonanotte da Bazinga. Io ti voglio e non ci siamo, ma io ti voglio lo stesso e non ci siamo. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Down on the edge of my